Partecipa al No Border Camp a Bruxelles. 7 giorni di azioni, film e dibattiti su migrazione e politiche migratorie. Dal 25 di settembre al 3 di ottobre. Più informazioni sul sito www.noborderbxl.eu.org.